Mauro, io non so, temo voglia di qualcosa di nuovo, anche qualcosa di buono. Magari anche di un evento itinerante, un po' così tutto da ballare. Ah sì, ma mi hai letto nel pensiero. Mi piace sì. Che ci capiamo così al volo. È telepatia. Dici? O forse è che abbiamo fatto una bellissima intervista? Può darsi. Allora, io direi che per spiegarti bene quello di cui avrei voglia, ti leggo la descrizione. Big Mama è la nuova dimensione della black music, il nuovo rhythm and blues che incontra l'hip hop e il reggaeton, tutto con un filo conduttore che è una zona bellissima dell'Italia. Sentiamo. Ce ne sono tante, però in particolare ce n'è una, il Salento. Quindi è una serata a base di generi musicali, molto ballerecci, per divertirsi un sacco, venerdì sera all'Estragon di Bologna. Mm-hmm. E perché ne stiamo parlando? Ne stiamo parlando perché ci saranno due ospiti. Sono uno, Sergio Silvestre, e l'altro è una band che a me fa impazzire. Cioè proprio è una roba che quando li sento io non riesco a stare ferma. E tra l'altro mi stupiscono perché suonano da tantissimo tempo e riescono comunque a essere delle bombe. Tutti i concerti che fanno, tutti gli album che creano sono sempre comunque di altissimo livello. Stiamo parlando degli Apre la Classe. Qualcuno di voi se li ricorderà anche per il bellissimo primo maggio che Radio Città Fujiko ha organizzato e presentato lo scorso anno, quando gli Apre la Classe hanno chiuso la serata e ci hanno fatto ballare sul listone e ci hanno fatto scatenare. Beh, tornano a Bologna. Tornano a Bologna in questo format che comprende appunto loro e Sergio Silvestre, che è questo omone con una voce pazzesca che non è conosciutissimo, però è un personaggio molto molto interessante. Ma perché non scoprirli allora? Esatto, venerdì 17, nonostante la giornata scaramantica, non chiudetevi in casa, ma andate a divertirvi. Ma dimenticatevi di queste cose scaramantiche, dai. In occasione di questo evento abbiamo avuto la possibilità, e tra poco lo ascolterete, di parlare con Cecco degli Apri la Classe. Gli abbiamo fatto qualche domanda sulla serata di venerdì, su progetti futuri, sulla band in generale, la lunghissima storia degli Apri la Classe, che ha più di 20 anni. E io tra l'altro mi sono tolta qualche curiosità anche riguardo a come riescono in 2 decenni sostanzialmente a rimanere così intatti, intonsi direi, nella loro carica. Beh, proprio per fare questo, anche durante l'intervista vi facciamo ascoltare diversi pezzi, anche di diversi album, perché una delle particolarità di questa band è di esplorare continuamente generi musicali, rinnovarsi in continuazione. Esatto, recentemente è uscito un brano di cui parleremo anche con Cecco, che si chiama Salvador, che è un trappone. Un trappone, l'ha definito così lui, non ci siamo inventati niente, giuriamo. Ma invece, prima di lasciarvi all'intervista a Cecco, vi facciamo ascoltare un vecchio pezzo, così anche i giovani capiscono un po' tutta la storia, o almeno qualche pezzo della storia degli Apri la Classe. Ce l'ho, ho capito qual è. È quello che li ha tipo resi famosi, cioè li ha fatti schizzare in cima alle classifiche. Ce ne sono tanti che li hanno resi famosi. Sì, eh? Ma uno in particolare. Ecco, vi lasciamo con le note di Paris degli Apri la Classe e all'intervista a Cecco, in occasione del concerto di venerdì all'Estragon Club. Big Mama. Le peuple, la foule qui bouge comme des fourmis, ça c'est le monde qui a pari. La musique qui se lève dans toute la ville, le vin et la magie de son parfum. La foule qui se lève à chanter, vive le 14 juillet. Paris de nuit, Paris les ruelles, Paris ses galeries, l'odeur de la Seine, les histoires et la magie, les têtes coupées pour avoir la liberté, mais comme le grand jour rien qu'aurait changé. Paris, Paris, Paris la paresseuse, Paris de nuit est plus joli. Paris, Paris, Paris ses amoureux, ça c'est le monde qui a Paris, la musique qui se lève dans toute la ville. Le vin et la magie de son parfum. La foule qui se lève à chanter. Vive le 14 juillet. Qui aime bouger, vive sauter. Et c'est seulement pour tous les gens qui aiment danser. Alors n'arrête pas de bouger ta tête sans arrêter ton corps. Le son de cette musique arrive par le bon fond de mon cœur. Alors bougez, bougez les mains, les pieds, les mains et puis le corps. Essaye de sauter plus vite et en même temps c'est chanter. Alors parlare di questo fine settimana e del concerto che ci aspetta sabato all'Estragon, abbiamo con noi un ospite speciale che è con noi appunto per questa intervista. Ciao Cecco, grazie per essere a Radio Città Fujiko. Ciao, buonasera a tutti. Allora, per chi non avesse ancora capito di chi stiamo parlando, in realtà sarà con noi per parlare degli Aprella Class, quindi ti vorremmo fare qualche domandina, diciamo, in vista di questa serata e anche un po' sulla storia della vostra band, che è molto interessante e tra l'altro è una band insomma, che ha più di 20 anni, quindi come dire, siete grandi. Grazie per il complimento. Che è un po' come dire, sei bravo vecchio mio, però no, non ti preoccupare, in maniera più assoluta siamo felicissimi del nostro percorso ventennale praticamente, che ci vede in giro per Italia, Europa e mondo ormai con dei tour che non si fermano mai, con un po' di album all'attivo, ma soprattutto quello che ci ha sempre tenuto in vita fino ad oggi sono le migliaia di concerti che abbiamo consumato in giro per questa meravigliosa terra. E ripartiamo con questa nuova avventura, con questo format che, come avevi appena annunciato tu, appunto farà una tappa anche all'estero con a Bologna, dove comunque non saremo soli, ed è un modo geniale anche per far festa, perché comunque nell'integrazione delle tre cose che ci sono assieme sono perfette per passare una splendida serata. Dai, allora facciamo che, se ti va, prima di parlare della vostra storia, ti chiederei appunto com'è organizzata questa serata, cosa ci aspetta sabato? Niente, apriamo noi, facciamo la predanza noi con il concerto di Apre, appunto, con una 60 minuti a bomba praticamente del nostro live, dopodiché parte il format di Big Mama, che è un format molto reggaeton, che poi vedrà come ospite finale, come guest, il nostro big boy amico Sergio Silvestre. Perfetto. A proposito di questo, anzi a proposito della vostra storia, che prima io ho detto che siete grandi, ma era veramente un complimento, avete appunto 24 anni, se non sbaglio, l'attivo, avete iniziato nel 1996, giusto? A suonare, sì, assieme. E in tutti questi anni siete riusciti a mantenere molto viva un'identità che vi caratterizza e che è assolutamente, diciamo, inconfondibile, io la definirei così, ecco. E non penso sia facile per due decenni riuscire comunque a lavorare come fate voi, a creare la musica che fate voi. Io vorrei chiedere come cercate di rinnovarvi e come lavorate sulla vostra identità musicale. Ma partiamo dal concetto che gli Aprei, come proprio incipit a livello di pensiero, è stato un gruppo che ha comunque sempre guardato la musica a 360 gradi, inteso che non siamo mai stati su due binari, o non abbiamo mai avuto la possibilità, abbiamo mai dato la possibilità di poterci inscatolare in qualche genere musicale. Abbiamo sempre cercato di spingerci oltre, tant'è vero che basta ascoltare la nostra discografia per capire che da album ad album sono praticamente dei sound completamente differenti, però che tengono un filo conduttore unico tra il primo, dal primo all'ultimo album. Io dico sempre all'interno delle interviste che non c'è una scatola dove c'è il genere musicale con la scritta Breaklass, ma c'è una scatola con la scritta Breaklass per quello che abbiamo sempre cercato di fare. Tanto è vero, lo si può vincere anche dall'ultimo singolo, che è Salvador, che è un trappone di una generazione, però che comunque conserva sempre i colori della nostra identità. Il trappone mi piace, è bellissimo. Come definizione molto bella. Tra l'altro Salvador è in collaborazione con Danti, ma ha anche una tematica importante, insomma. Vuoi parlarci un po' di cosa parlate e del perché avete scelto questo tema? Abbiamo scelto questo tema perché diciamo che è abbastanza ricorrente all'interno di quest'ultimo, specialmente, decennio, dove pur di apparire, pur di arrivare a un obiettivo economico, la gente darebbe via un braccio, mentre noi abbiamo sempre cercato di dire sì, i soldi sono importanti, è inutile prenderci in giro nella maniera più assoluta, però il fine non giustifica i mezzi, diciamo così. Si può arrivare tranquillamente direttamente a un obiettivo anche economico, però senza strafare. Non so se ho reso chiaro il concetto di quello che voglio spiegare. Beh, direi di sì. E praticamente, comunque, come anche in questo pezzo, praticamente anche nelle altre canzoni, abbiamo sempre cercato di trasmettere e di comunicare, perché la grande responsabilità che ci siamo sempre sentiti in tutti questi anni, e che un po' si è sbarrita negli ultimi anni, che sta venendo a mancare la comunicazione verso le nuove generazioni. Scrivere, sento troppo spesso delle cose, sì, che ok, funzionano anche in rima o anche come ritornello, però spesso ci dimentichiamo che abbiamo una grandissima responsabilità, che è quella di comunicare verso le prossime generazioni. Perfetto, direi che allora ascoltiamo questo pezzo e poi torniamo a farti qualche altra domanda. Questa qui è la storia del bandito Salvador e di una sparatoria tra coca, rum e shot, per ricordare a tutti di come cominciò e di come perse la memoria quando la polizia arrivò. Salvador è ricercato, ma va in giro tutto armato e rilassato. Salvador smemorato, proprio come tutti quelli che ha pagato. Salvador, mi spara dritto al cielo, che c'è un angelo con il sombrero. E allora mi spara dritto al cielo, hai una taglia anche nell'aldilà. Maledetto di nero, nero, nero, nero, nero. Maledetto di nero, nero, nero, nero, nero. Maledetto di nero, nero, nero, nero, nero. Che trasforma il falso in vero, e ciò che vuole sta un segreto. Salvatore è delinquente, benefattore di tutta la gente, paga il dinero sempre al sergente, vive la vita sempre al presente, viaggia tra Cartagena e Cancun, bamba sigari e casse di rum, rispetto lui non porterà più, i soldi sono la solitù. E allora mi spara dritto al cielo, che c'è un angelo con il sombrero. E allora mi spara dritto al cielo, hai una taglia anche nell'aldilà. Maledetto di nero, nero, nero, nero, nero. Maledetto di nero, nero, nero, nero, nero. Maledetto di nero, nero, nero, nero, nero. Che trasforma il falso in vero, e ciò che vuole sta un segreto. Nessuno sa la storia del bandito Salvador, che con il suo denaro il silenzio si comprò. Noi eravamo lì a suonare e abbiamo visto come andò. Volevamo raccontarlo, ma maledetto di nero, nero, nero, nero, nero. Maledetto di nero, nero, nero, nero, nero. Maledetto di nero, nero, nero, nero, nero. Che trasforma il falso in vero, e ciò che vuole sta un segreto. Prima di questo pezzo, Salvador, è uscito anche Nada Contigo insieme a Alborosi, insomma un altro personaggio molto importante della musica italiana. E avete in programma anche un nuovo album, magari in cui inserirete questi pezzi o qualche lavoro a cui state pensando nel prossimo futuro? Per il momento stiamo lavorando solamente sull'uscita di altri singoli, non per l'album, ma almeno in maniera imminente, mentre stiamo costruendo un nuovo live che è già in programmazione, già abbiamo iniziato a buttare giù le prime prove, che comunque porterà un sacco di novità sia a livello scenografico sia a livello di scaletta e anche in parte a livello di sound. E si sa già dove potremmo vedervi, perché noi per esempio parliamo spesso di festival, soprattutto durante l'estate, e voi siete una musica da festival, anche proprio da ballare, proprio da divertirsi, e avete già qualche cosa in programma per quest'estate? Guarda, diverse cose bollono in pentola, però non ve le posso svelare, anche perché determinate cose sono ancora all'oscuro. So che ci sono diverse trattative in atto, perciò comunque sono contento di questa cosa, che è un'altra cosa che ci onora tantissimo, perché dopo 20 anni avere comunque un calendario sempre ricco come ogni anno ti fa capire che comunque la gente ci tiene a venire a vedere i concerti, a condividere l'energia che abbiamo sempre e da sempre cercato di sprigionare. Infatti aprire la classe è un po' una garanzia anche di divertimento, di grande musica, i vari concerti anche qua a Bologna del 1° maggio, adesso non ricordo se era l'anno scorso o l'anno prima. L'anno scorso eravamo sotto palco. Ok, c'eravamo. E io lo chiedo. Un bel ricordo di quel 1° maggio. Sì, è stata una gran bella serata. Adesso non mi ricordo chi c'era in tutta la scaletta, ma mi ricordo che c'erano anche altri gruppi molto interessanti. E a proposito di altri gruppi interessanti, voi avete varie collaborazioni all'attivo. Dicevamo appunto l'ultima con Danti, Alborosi. Quali sono gli altri artisti con cui pensate di collaborare o con cui avete collaborazioni già in cantiere? Collaborazioni in cantiere ci abbiamo dai Stone System, a Giuliano da Giorgi, a Caparezza. Non ricordo neanche più, te lo giuro, sono passati tanti anni e tanti album. Per quanto riguarda quelle future, invece, non ci si pone mai un obiettivo con chi, ma aspettiamo sempre di avere un pezzo in mano e capire chi potrebbe essere il giusto fit all'interno. Non c'è nulla di costruito a tavolino, bisogna avere prima una canzone, capire a livello energetico e sinergetico quello che praticamente può trasmettere il pezzo, e di conseguenza intuiamo chi potrebbe essere il fit o a chi potremmo probabilmente, per meglio dire, dare la possibilità di fare il fit, o loro, per meglio dire, ci danno la possibilità di avere la loro collaborazione all'interno del singolo. Perfetto, io ti faccio l'ultima domanda prima di salutarci e ti vorrei chiedere, visto che appunto in tutti questi anni, come dicevi anche tu, gli album sono molto diversi e anche le sonorità che avete utilizzato nei diversi album sono cambiate tanto. Soprattutto all'inizio, chi è che vi ha influenzato? Da chi avete preso ispirazione o comunque da chi avete preso energia in un qualche modo? Il re in assoluto della nostra vita resta Manu Chao, nella maniera più assoluta. Persona che ci ha folgorato all'interno di un live nel lontano 2001, in un concerto a Melpignano, persona che poi tra le tante è diventata anche amica e con cui abbiamo anche condiviso il palco in un concerto. Invito me e Puccia a cantare un paio di pezzi con lui, perciò ti lascio immaginare. Bellissimo! Fu uno dei giorni più belli della mia vita, nella maniera più assoluta. Perciò sì, quello di sicuro è stato la pietra miliare della nostra vita, è stato lui. E poi ovviamente con la crescita, con l'evolversi della musica, sono diversi punti di riferimento. La cosa figa che all'interno della band esiste ancora è che ognuno di noi ha diversi ascolti musicali. E quello che facciamo quando ci incontriamo è che ognuno metta la propria anima e fa sì che praticamente si unisca per amalgamare quello che poi è diventato il sound degli Ebrea Class. Perfetto, allora noi, in vista della data appunto che ci sarà tra pochissimi giorni all'Estragon, ti chiedo se hai voglia di scegliere una canzone per concludere questa chiacchierata. Guarda, ma è un pezzo nostro, parli? Come vuoi tu, quello che preferisci. Sì, va bene, allora, già che per far capire praticamente la differenza del sound che abbiamo sottolineato durante questa intervista, scelgo Alma Latina, che è del nostro bellissima, ultimo album. Bellissima, io la adoro. Che è un super roots anni 70, che è completamente alle antipodi praticamente da Salvador, però che tra i due si sente che qualche cosa di collante c'è. Perfetto, ora visto che anche questa a me piace tantissimo, la mandiamo, la balliamo e ci vediamo all'Estragon Club. Venerdì 17 gennaio. Ciao a tutti ragazzi, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Fucigo. Ciao a tutti da Cesco e dagli Apcala Class. Grazie mille. Colombia, Paraguay, Venezuela, Brasil en el alma, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, alma latina, Perú, México, Cuba, Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela, Brasil en el alma, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, alma latina, tierra de fuego da scoprire, tierra senza fine dove crescere. Solo a camminare verso la strada del sole che non smette di bruciare il calore in fondo al cuore. Per un Mexico, Cuba, Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela, Brasile nell'alma, Nicaragua, Panama, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Cile, Ecuador, alma latina. Per un Mexico, Cuba, Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela, Brasile nell'alma, Panamá, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, alma latina. Buscando San Good Vibes, Fernie San Pal Paraguayo, prestado ser chifo de Red Way to Drive By.